Sono cresciuto a botte di quattro fino a notte, proiezioni da mezzanotte alle sette, fuggi, lava, diodata, ruota, soavi, argento, so la mia droga, mille VHS macinate nel video, fotogrammi sulla retina, flusso continuo, passivo, cinemaniaco, sangue residuo, tra gli occhi e cervello, delirio visivo, sono scivo, come il mondo cane, su corpi tracce di violenza carnale. Non sono un punk, forse sono una bestia, ma la mente è l'unica arma che mi resta, per questo non mi autodistruggerò, per avere ancora armi da sparare col mio flow, finché lo psicopatico non mi farà la festa. Anni fa non esisteva il DVX, neppure il DVD, a ruota di trashcore, Larsen Fass e AND. Troppo piccolo per troppo sangue, dici che sono pazzo ma il prete coi chieri che ti vede la passione splatter di Gesù, in prima serata con me Gibson in TV. Maccio Tartarughe vive con Luca Barbareschi, le dice set mischio dischi con i teschi. Nel 94 fotografati al cimitero a mezzanotte, peggio delle sette, la provincia era morta sotto il piombo e sullo sfondo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, però buona visione con il video più bastardo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, però buona visione con il video più bastardo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, però buona visione con il video più bastardo, metti criminali un'altra volta di ritorno, però buona visione di nuovo in cammino e faccio finta di niente, allucinato come il cattivo tenente, acido, insonne, devo restare sveglio perché sono sicuro di vivere in un brutto sogno, perso nella notte di bambole di vetro, il sentiero ormai perduto e non torno più indietro, non ho nome né volte, mi firmo con la X e vago nei boschi come fossi a Twin Peaks. Siamo i freaks della scena del rap, cancellati dalle liste dei jet set, ma abbiamo il pass per l'inferno visuale, dai entra nella fiera di una mente criminale. Stacco l'antenna del televisore, attacco il registratore oppure il DVD, il lettore che gira e torna in mente l'infanzia, chiuso in una stanza a guardare ad oltranza film dell'orrore, cercando il calore dalla visione di una morte gore. Dalle mie casse escono le urla, e anche se preghi tanto non serve a nulla, il sangue in petto ha bagnato la mia culla, e ora che sono cresciuto non mi è passata la voglia di una ragazza che vomita i suoi intestini, di quattro lame sulle dita per i tuoi bambini. Dentro i miei festini trovi solo delle menti criminali, giorni grigi e passivi, qui in primis siamo autodistruttivi, e per entrare ricordati l'iris, una stanza piena di fil di ferro, una cesta con dentro mio fratello, un massacro al lago di cristallo, zero buona visione con il video più bastardo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, zero buona visione con il video più bastardo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, zero buona visione con il video più bastardo, guardati intorno, delirio visivo, un'altra volta di ritorno, zero buona visione con il video più bastardo, metti criminali un'altra volta di ritorno, zero buona visione. Io ho avuto per la prima volta percezione di questi fenomeni, cioè del fatto della del soprannaturale, delle certi aspetti cosiddetti magici, no? ancora in modo molto primitivo, però comunque in modo anche ficcante, erano molto presenti nella mia. Quindi io mi riporto all'epoca in realtà in cui io ho scoperto questo mondo misterioso, esoterico, esoterico, esoterico, esoterico, esoterico.